carissimi amici di Orgm. Non è l'ora giusta. Siamo, no, ci siamo rovinati il prossimo programma. Spoilerone. Runtime Radio, benvenuti a questo pomeriggio rilassante di sabato con questa musichetta da ascensore che ci accompagna per la prossima ora, ora e mezza, in cui vi faremo compagnia come tutti i giorni, almeno una live al giorno da Runtime Radio. E oggi pomeriggio tocca a OGM. Oltranzisti gastricamente maleducati, con me c'è Walter Sbano. Buonasera, bentrovati. Pizzi, cos'è successo? Hai ingoiato Bertallotto? Non lo so, ma in realtà c'ho un po' di abbassamento. No, e quando è partita volevo partire tutto carico, no? Poi dopo lo sciacquone è partito sta musichetta jazz, così allora mi è venuto un po', come dire, un momento di relax. Poi c'ho l'ictus oggi. Però va bene, perché ci colleghiamo dal Cibali. Sentiamo il Cibali, i rumori di sottofondo. Marco, guarda. Prendo la linea perché qui diciamo stiamo già, abbiamo già cominciato con qualche anticipo e posso darvi diciamo qualche notizia, che il negozio è aperto, il Bangladesh quindi sta fatturando come al solito, fatturando è una parola grossa, e ci sono 5 cassonetti di rifiuti sempre davanti al palazzo. E attenzione, ma questa volta il vicino di casa di rimpettaio del palazzo di fronte ha deciso di ridipingere la propria parte della facciata dell'edificio, e quindi ha praticamente allestito un completo intero di diciamo ristrutturazione, con tanto di palanche, scala, vernice, pennelli, e sta ricoprendo l'arancione chiaro con il quale aveva fatto la propria facciata, la parte di facciata. Per diciamo essere corretti bisogna specificare che il palazzo è un color arancione scuro, ma lui aveva optato per un arancione chiaro, diciamo pallido, un po' merdino, e ha deciso adesso di ricoprirlo con un rosso un po' slavato, un rosso romano, romano fa un po' cagare, però, e ha deciso. Vabbè, appunto questo colore, quindi la parete arlecchino si sta di nuovo ricoprendo con una nuova tonalità. Okay. In questo momento sta appunto, infatti molto interessante, in questo momento sta appunto sulle assi di legno a circa due metri, facendo da solo, non si può entrare dentro casa, non è che oggi a me è venuto l'idraulico per forza, quindi. E si è fatto pagare 3 volte, ho dovuto uscire di casa ovviamente, quindi. E sta dipingendo in questo momento intorno la persiana e i tubi del gas che corrono lungo la parete. Guardi, quindi, capito, ci sono novità, tipo cadute, vernice, mi interrompo, okay. Ti richiamiamo lì al Cibali, quindi chiudiamo il collegamento col Cibali. Solo l'ultima cosa, che è una cosa importante, che i nostri spettatori, che probabilmente saranno rimasti un po' con diciamo l'ansia di sapere come è andata a finire, la perdita d'acqua è stata chiusa. Oh, bene. E sì, eravamo in ansia, e soprattutto io mi sono deconcentrato già il primo minuto, insomma, di questa cosa. Comunque, e invece Walter, salutiamo gli amici in chat, che mi sa che oggi non c'è quelli che sono sopravvissuti a questo primo collegamento dal Cibali. Salutiamo Alex Arcuglia, salutiamo Lobby Frontali e salutiamo Girasole, che ci domanda: rosso pompeiano? Questo è un tecnicismo, però magari Gualdi ce lo potrà dire al prossimo collegamento. Voglio entrare nel merito della questione del rosso. Meglio, anche perché se volete vi invio, che potete girare tranquillamente, il contributo, diciamo, il contributo immagine. E c'è anche nel frattempo Michela De Paola, che ha finito con l'idraulico. Ciao Michela. Vabbè, è una cosa brutta quella che lo so, vabbè, c'era un velatissimo doppio senso, è chiaro, no? Qua non si risparmia nessuno, sì. Comunque, No, volevo dire che il rosso pompeiano in realtà ce l'aveva Gualdi a casa sua, su una parete, secondo me c'era sto rosso mezzo pompeiano, forse un po' più chiaro, però bello, molto bello. E noi ci siamo, insomma, accordati di fare questa trasmissione per parlare di un tema importante all'inizio, no? che volevamo sapere da noi, ma anche da voi. Abbassa un po' la base, perché insomma sapete, queste basi un po' invadenti, no? Che entrano nelle orecchie delle cuffie, forse voi così maleducate, com'era la canzone? Esatto, bravo. Voi le sentite di meno, ma noi le sentiamo di più, perché è tutto sgarubato qua, il sistema fa schifo, Spreaker schifo, Spreaker sei diventato il nostro nemico numero uno. Sicuramente vediamo. Allora, diciamo, il tema è, ci siamo interrogati fra di noi, come due o tre amici al bar, chiaramente, insomma, cioè due al bar e uno al Cibali, e ci siamo chiesti che cosa faremo durante il weekend di Pasqua e Pasquetta, insomma, perché è importante, no? Cioè, abbiamo programmi, progetti. Walter, inizia tu. Progettoni, perché come tutti gli anni ci raduneremo a casa di amici a fare la griglia. Aspetta. Allora, intanto guarda, aspetta, Walter, ho delle buone, diciamo, informazioni di mezzo. Arriva la sera di prima. Pasqua. No, il giorno di Pasqua sarà soprattutto tutta la settimana antecedente a Pasqua. Il giorno di Pasqua sarà una bellissima giornata di sole, quindi tutti quanti in campagna. No. È morto il Cibali? Balli? La delusione. Fuori dal. No, andiamo tutti quanti a giocare a pal. Gualdi, scusa, ma con cosa sei collegato? Col modem 56K? Perché? No, c'è un po' di problemi. Ah no, lui vorrebbe. No. Ci sta dicendo che noi andiamo tutti quanti a. No, vabbè, ragazzi, che vedevo. Io stavo anche pensando, però, diciamo, questo piano maledetto. La temperatura è calda, quindi secondo me si può anche andare. Che è coraggioso andare al mare, andare al lago. No. Allora, io vi racconto il piano malefico che sto cercando di, come dire, di espletare. Sì. Ho dei problemi un po' logistici, nel senso che avevo pensato di comprare un barbecue di quelli piccolini, sapete, quelli diciamo da balcone, che non costano neanche tanto normalmente, anche se ultimamente veramente i prezzi dei barbecue, da quando il barbecue è diventato una specie di moda e sono nati i negozi specializzati come fossero funghi, questa è una moda di 2-3 anni fa, quei barbecue quasi usa e getta, no? Che costavano 20-30 euro. Ci sono quelli proprio usa e getta, proprio quelli da 5-10 euro, che tu li usi una volta e poi li butti. Nella stagnola no, però ce n'erano alcuni, diciamo, a mobiletto semplice, centina di euro. Adesso lo stesso identico modello magari ne costa 60, quindi volevo valutare. Il problema è che ho un balconcino che è molto stretto, quindi diciamo che lo spazio utile per mettermi a fare una sbracciatina, seppur minima, è sacrificato, e non so come la prenderebbero i vicini, insomma quelli dei piani superiori, quindi ci devo un attimino ragionare, perché capisco che potrebbe essere un po' molesto, però sinceramente quella voglia di mangiare un po' di carne alla brace, che cosa che non faccio praticamente da quando è iniziato il brutto tempo, credo, quindi da settembre, ottobre in poi. E quindi insomma, per me la tradizione era sempre stata fare la sbraciata con gli amici a Pasquetta. Di solito, per la verità, la facevamo a casa di un amico che aveva ampio terrazzo e caminetto di backup, perché sappiamo che non importa quando la fai Pasquetta, può essere anche il 15 di agosto al posto del Ferragosto, ma comunque pioverà, e quindi avevamo sempre questo scenario ibrido che ci permetteva di fare la grigliata all'aperto se eravamo fortunati, la grigliata al chiuso se eravamo meno fortunati, e quest'anno per la prima volta non si potrà fare. Beh, considerando che, diciamo così, che a Gualdi, se non fosse per la mobilità, diciamo così, quindi per il discorso, penso che sostanzialmente cambia poco, perché Gualdi c'ha la cucina di Pasqua, sicuramente ce l'ha tutta a casa, c'ha problemi, e poi lo sentiamo. Invece Michela ci ha avuto la genialata, perché gironzolando insomma fra i vari gruppi, insomma, dei ristoranti, roba del genere, molti ristoranti in zona si sono inventati questa cosa molto carina, che è un modo un po' per superare la crisi, diciamo così, o perlomeno affrontare la crisi e fare una cosa carina anche per le persone, che è quello di fare un menù di Pasqua e deliverarlo a casa. Quindi allora noi abbiamo un po' di nero che non guasta mai, diciamo. Beh, quello non lo so, perché nero, no, scusa. Scherzo. Vabbè, no, perché a meno che non glielo paghi in anticipo. Vabbè, dai, era una congettura, lascia stare. Devi dire un per cazzo pure su una cosa fatta bene. No, comunque a parte tutto, è carina come cosa, perché comunque tu scegli quale menù ti piace, lo ordini e loro praticamente te lo portano a casa già prefatto, quindi insomma, alla fine devi fare il minimo indispensabile. È un modo per fare una cosa che avresti fatto comunque, però dato che comunque non puoi uscire, insomma, diciamo che puoi fare questo. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo preso anche per Matteo e la ragazza che non vivono con noi, l'abbiamo fatto recapitare, quindi insomma a Pasqua condivideremo, diciamo, anche questa cosa un po' insieme. Guarda, però, ti dico, trovo l'idea molto carina, ed effettivamente insomma è anche un modo per dare una mano a tutte queste attività che sono, la ristorazione è tra le più colpite dalla crisi, perché ovviamente non possono lavorare se non appunto a domicilio, e neanche detto, per esempio De Luca in campagna il domicilio l'ha vietato e non l'ho ancora ripristinato, quindi però capisco anche che diciamo un giorno come Pasqua, se non hai nient'altro da fare, divertirsi a cucinare potrebbe essere anche l'occasione per passare una giornata in un modo un po' più, diciamo, allegro, un po' più costruttivo, perché se si aspetti anche che ti portano il pranzo a casa, non ti passa neanche quel giorno, ecco. Sì, però, ripeto, diciamo che la cosa simbolica è più il fatto di mangiare la cosa da ristorante, no? Nel senso, per quelli che avevano la tradizione di andare a Pasqua o a Pasquetta al ristorante, diciamo che loro ti offrono sta cosa, che è comunque la cosa che tu, cioè io non è che mi metto a fare il super abbacchio e cose, insomma non so neanche che cazzo si mangia a Pasqua, a dire il vero, però comunque non è che mi metto a fare le cose super articolate, no? Farei una cosa normale, no? Perlomeno una cosa magari un po' particolare, però normale. Invece in questo modo comunque tu c'hai il pranzo del ristorante che te viene portato a casa, è più una cosa del, è un interscambio, diciamo, tra entità, no? Dice, nel senso, loro comunque gli dai una mano e loro fanno una cosa carina, e alla fine comunque sai che ne so, tu e un'altra persona che non è vicina a te stai mangiando la stessa cosa, e magari anche, che ne so, in teleconferenza, così per, ah sì, anche quello, arricchire la tristezza della situazione, insomma. Anche se ti devo dire, avessi casa vostra, Pizzi, io so cosa farei, io accenderei il caminetto. Lo so, ma sempre per il discorso della brace. Mai in 10 anni, non mai l'abbiamo fatto. È vero, io, vabbè, il caminetto è una di quelle cose che, come dire, invidio a chi ce l'ha. La mia ragazza ce l'ha perché, vabbè, loro abitano in campagna, per loro è proprio un metodo per scaldare casa tutto l'inverno, a differenza, diciamo, di altri amici che ce l'hanno, ma lo usano solo in queste occasioni. Ecco, però, insomma, scusate, confesso che mi piacerebbe averlo un domani, magari in una futura casa ci riuscirò pure, però ecco, proprio per un uso, per un uso, diciamo, nelle occasioni in cui si vuole fare una grigliata per il riscaldamento, diventa un po' più scomodo, un po' più oneroso. No, ma è più quello, sì, è più una questione anche d'atmosfera. In realtà Michela, quando abbiamo preso questa casa, era contentissima perché dice, ah, c'è il caminetto, allora io il caminetto, e poi non l'abbiamo mai usato. È un po' pure una cosa di pigrizia. Poi dopo sono arrivati i gatti, dico, io c'ho paura, no? Faccio la brace e il gatto viene subito, cioè, nel senso, ma, morto, ma guarda, Vale vive circondata morto, di gatti, e con il massimo che fanno è praticamente mettersi comodi ai lati del caminetto quando è caldo in inverno, perché ovviamente il calore si trasmette dalle pareti e quindi stanno belli e paciosi, ma ti posso garantire che non, diciamo, percepiscono il pericolo e non si avvicinano oltre il dovuto. No, vabbè, lo immagino, in realtà è più una, sì, un po' una cosa. Potrei anche decidere di farlo un giorno. Più che altro, ecco, distrugge i pigiami il caminetto, perché i lapilli che schizzano dal legno, se non metti il paralapilli, ti fanno bruciare un pigiama al giorno, quello sì, però per il resto, insomma, è piacevole. Bene, è piacevole. Bene. Ma invece dal Cibali, che fanno dal Cibali a Pasqua? No, sono ancora troppo presto. Troppo presto. Guardi, ma sei andato a buscare la scia al vicino? Perché certe cose, secondo me, vanno controllate. Tu sai che siamo in clima di delazione, per cui è tuo dovere civico andare dal vicino, accertarti che abbia la scia per i lavori che sta facendo, e se non c'è là lo devi denunziare. Che aspetti? Ma che è la scia? No, la scia non la si scia può chimica. In questo caso non c'è bisogno di scia per una ritinteggiatura, che secondo me adesso è anche un problema di qualità. Lo so, eh. No, non è un punteggio, un trabattello, malissimo. No, vedo poi tra l'altro sul suo terrazzo, per cui comunque lo può fare. Non so, vedo una diversa tonalità, forse perché diciamo ancora fresca la vernice. Non vorrei che l'elemento arlecchino si sia arricchito di nuovo colore, insomma. Però vabbè, io direi che non ci sono grossissime novità qui, a parte il metro quadro in più che ha verniciato. Ma facci sapere se niente a fare il terzo vano, però, Sì, sì, ma quello io sto aspettando, infatti. Qui, allora, c'è il lobby frontali che dice che lui il caminetto lo utilizza come scarpiera, ce l'ha dentro la stanza, ma non. E Michela invece dice che noi l'abbiamo usato il caminetto e c'è Palavato Lava. Io sta cosa non mai ricordo, ma non faccio veramente testo da sto punto di vista. E vabbè ragazzi, invece il primo maggio il primo maggio la stessa cosa. Aspetta, abbiamo... scusa, ma Michela ci fa una domanda fondamentale dopo. Cioè, ma Gualdi parla allo stadio? Sì, dal Cibali, è inviato, l'abbiamo, esatto, l'abbiamo mandato in trasferta già da settimane, sì. Per quello che nelle chat non compare mai, perché non è qui. Esatto, lui fa la telecronaca di quello che succede minuto per minuto, ogni tanto ci interrompe se c'è qualche gol o qualcosa del genere, insomma. Vabbè, no, dicevo invece il primo maggio. Vai. Okay, no, io volevo soltanto raccontarvi di il Cateno De Luca. Non so se avete saputo che sono stato soprannominato Scateno. Perché il De Luca messinese, quello, il fratello scemo, tra virgolette. Scateno, sì, Scateno. Scateno praticamente che ha fatto? Stamattina ha postato sui social uova fresche in sardine che è andato a prendere in campagna a 30 km da casa sua. Cosa che si può fare, no? Mi sembra che sia fattibile. Per necessità alimentari, sì, si può fare. Eh no, a 30 km da casa tua no, devi rimanere nelle pertinenze e nel comune di residenza, e non penso che ci sia una giustizia, non penso che in tutta Messina non ci fossero uova al punto da doverle andare a prendere a 30 km. No, mi dispiace, ma, che non scusa, c'è Peppe Inzio in live. Gliel'ha chiesto la mamma, Walter, gliel'ha chiesto la mamma, vai a prendere le uova delle galline che poverine fanno le uova, no? Che fai, non ci vai? Giusto, no, guarda. Io sto intanto sto interagendo con l'inviato a Messina. Ah, ok, vabbè. Allora io intanto interrompo qui il collegamento al Cibali, ha rotto pure un po' il cazzo, devo dire la verità. E invece il primo maggio abbiamo deciso con Michela di mettere, di farci recapitare due altoparlanti, insomma, belli grossi e un subwoofer. E praticamente fare il concerto del primo maggio dentro casa, e noi che saltiamo così per il medicinarci e stiamo al concerto del primo maggio, perché così è un modo de, insomma, anche questo ovviamente non è vero, però insomma sarebbe carino. C'è anche il tipo fuori dalla finestra che vi vende le boccette d'acqua, esatto, a 10 euro l'una. Esatto, c'è ogni tanto qualcuno che passa col tubo e ti spruzza pure un po', capito? Poi fumo de canna ovunque. Io stavo guardando i ponti, ragazzi, stavo guardando i ponti. Il 25 è sabato, quindi niente. Però il primo maggio è venerdì, uno potrebbe andarsi a fare il fine settimana lungo, sì, fuori. Lungo, no? Esatto, sì. Beh, vabbè, pure Pasqua e Pasquetta, alla fine era un venerdì, sabato, lunedì. Sabato, domenica e lunedì. Guarda, io penso che oggigiorno la maggior parte degli alieni si accontenterebbe di fare quel weekend fuori, anche cioè fuori casa, sotto. Penso che si accontenterebbe anche, esatto, di questo. Esatto. Giustamente Girasole chiede a Michela: fai una bella diretta di musica? Potremmo fare il primo maggio runtime in qualche modo. Attenzione. Ah, beh, bella idea, bravo. Lo proponiamo a Alex. Qualcuno lo scriva ad Alex. Magari qualcosa ce lo inventiamo, insomma, perché no? La forza, sì, bravo, bello, bella idea. Adesso ci ragioniamo sopra. Ma parliamo anche un po' di cose tristi. Tipo, non lo so, che questo picco non passa. È il picco più lungo della storia dei picchi, praticamente. E perché non è a punta questo picco, capito? È come dire, è un tronco di piramide. Quindi allora, io ho sentito usare un termine meraviglioso che non sentivo dai tempi di mia nonna. Il pianoro è veramente. Il pianoro è veramente spettacolare, perché mi lo diceva mio nonno, il pianoro, cioè questo pianoro, capito? Cioè, che, insomma, non so se è veramente italiano o se è una cosa gergale, però questo picco non è proprio un picco, è un pianoro, è bellissimo, è una cosa che vedo che c'è anche Harley Condors che c'è venuto a trovare. Provate a cercare su internet cos'è il pianoro. Il pianoro è uno spiazzo, un altopiano sarebbe praticamente. Quello lo so che cos'è il pianoro, però non so se era italiano o se era gergale, capito? Cioè, nel senso, è comunque... La definizione da dizionario è altopiano non molto esteso né elevato, quindi in teoria, se lo dobbiamo interpretare letteralmente, non dovrebbe durare troppo questo pianoro, la discesa dovrebbe finalmente cominciare. Non è a punta, ma è più morbido, diciamo così, è più un attimo stanziato e poi piano piano scenderà, insomma, quindi questo è... Fatto sta che per favorire il rilancio del mercato degli psicofarmaci, l'altro giorno il responsabile della protezione civile ci ha voluto disilludere, malgrado non fosse proprio il suo ruolo istituzionale dare questo tipo di notizia, raccontando insomma che ho capito ragazzi, tenete conto che non riapriremo un bel cazzo di niente a metà aprile, il concetto lo riassumo in un linguaggio proprio ad OGM, ma prima che finisca almeno tutto maggio ci attacchiamo al cazzo, e questo questo, insomma, da chi sperava, perché magari, come dire, illuso o diciamo spronato dai dati leggermente confortanti di questi giorni, credeva che a metà, diciamo che dopo Pasqua qualcosa potesse ripartire, è stato subito blastato, demoralizzato nel morale. Nel frattempo mi ha risposto, perché ho contattato in chat privatamente Peppe Rizzard, che ricordiamo è di Messina, e dice che si è prenotato pure le uova, pure lui per le uova, perché vuole conoscere la puttana di sua madre. Però vabbè, poi andiamo a interagire bene, un po' meglio. Bene. No, io non me la sono mai fatta l'illusione di aprile, onestamente. Pensavo maggio abbondante, anche fine maggio, insomma. Ma anche perché c'è sempre da considerare che quando inizierà a stabilire la fase 2, regà, cioè non credo che le cose torneranno alla normalità prima di un sacco di tempo. A parte che stavo riflettendo proprio oggi con Michela dal fatto che è entrato questo tizio, che praticamente siamo stati tutti distanti, lui tutto bardato, è venuto, ha guardato quello che doveva fare, se n'è andato, noi abbiamo igienizzato dove è passato, quello che ha toccato. Perché comunque il danno non è il nostro, ma è di quelli di sopra. Quindi il problema, grazie a Dio, non è manco il nostro, nel senso che sono cazzi di quelli di sopra. Però è, cioè, quanto psicologicamente, però attenzione Pizzi, scusa, fammi evidenziare il fatto che l'idraulica ci insegna che l'acqua va dall'alto verso il basso negli scarichi, quindi se la colonna ha un problema ed è di quello di sopra, tu comunque stando di sotto ci avrai qualche ripercussione, quindi non è un problema tuo, ma è come dire, di riflesso diventa anche tuo. No, ma il problema è che già c'è il problema sopra. Capito? Quindi ovviamente, essendoci il problema con l'acqua che cade, e noi abbiamo sollecitato l'intervento dell'idraulico, perché sta cosa comunque a me mi sta a romper cazzo, no? Cioè, nel senso, chiaramente l'importante è che non pago io, cioè questa è un po' la prima questione. E comunque dicevo, cioè, quando i rapporti personali in generale, questo atteggiamento poi alla fine passerà, secondo voi sarà automatico quando poi alla fine le cose torneranno alla normalità, o ci vorrà un po' di tempo prima che la gente si riabitui? Perché questa cosa secondo me ci condizionerà tanto nel futuro, c'ho questa sensazione, insomma. Ma in realtà io credo, Simone, che dovremmo andare avanti con una profilassi un po' esasperata per parecchio tempo, perché fino a quando non c'è la cura veramente efficace, o ci auguriamo tutti il vaccino, dovremo comunque innanzitutto, come dire, abituarci sempre di più che dovremo andare in giro ancora con le mascherine, che dovremo tenere un minimo di distanza, che dovremo usare i guanti, che dovremo lavarci le mani più spesso del normale. Alcune attività probabilmente non torneranno a pieno regime per un bel pezzo, e ritorno a pensare con un certo, diciamo, rammarico a tutti quelli che come professione fanno i ristoratori, perché i locali, anche qualora dovessero riaprire, non si potranno riempire per come, diciamo, era abituale per un bel pezzo ancora. E quindi diciamo che certi atteggiamenti non li dovremo perdere medio termine. Perché sennò sta cosa, vedi come succede in Cina, fino a che non hai debellato il problema, sta cosa tornerà. Basta niente che ritorna, esatto. Okay. Vabbè, vedo che c'è PRG, c'è tutta gente nuova in chat, quindi vi siete persi la domanda: cosa farete a Pasqua? A quindi, Pasqua, a Pasquetta, il 25 aprile, intanto abbiamo tre feste da gestire qui al primo. Quindi, insomma, scriveteci in chat che lo leggiamo. Intanto ci ricolleghiamo un attimo col Cibali, sentiamo insomma se ci sono novità o se Cibali volevano dire qualcosa. Ci sono grosse novità, il vicino è andato a prendere, penso, nuova vernice, o comunque fare qualcosa con il secchio della vernice a casa. Adesso ha finito finalmente di lavorare col trabattello ed è sceso a terra per finire la tinteggiatura della parte, diciamo, raggiungibile ad altezza uomo. Mentre per quanto riguarda la frutteria alimentare Bangladesh davanti a me, c'è il proprietario che sta spostando alcune cassette. Adesso sta mettendo alcune cassette nere sotto una cassetta blu, e chiede informazioni all'interno, dove c'è l'altra, penso la moglie, la compagna, che gli guardi. Sì? Eh no, ogni tanto deve essere perché siete in tanti allo stadio e quindi il segnale del cellulare non regge. No, infatti, c'è parecchia confusione. Adesso sta spostando le cassette nere di nuovo e si rivolge all'interno, però non, diciamo, sono fasi, diciamo, di stanca. In questo momento non c'è nessuna novità e quindi io direi di nuovo linea allo studio. Perfetto, grazie. Lo studio riprende volentieri la linea e niente. Io devo dire che un po' lo invidio. Io lo invidio Marco, perché se mi affaccio al mio balcone il massimo di cui posso godere è del cartolaio che si è assemblato dentro la sua attività commerciale. Io non ho capito se addirittura con gli ultimi ma nel senso che si è asserragliato, scusate, ho sbagliato completamente verbo, perché non ho capito se con gli ultimi decreti le cartolerie sono considerate diciamo generi necessari o meno, quindi non ho capito se certo può che sono generi necessari aperto. Dove le compri toner della stampante per stampare questo è per i decreti, c'ha ragione, anche le risme di fogli. E fatto sta che lui la mattina arriva, lascia la saracinesca a metà e si chiude dentro. Quindi noi sappiamo che è lì, sappiamo che ogni tanto guarda fuori, qualcuno guarda dentro, però insomma gioca con questo vedo non vedo, ci sono non ci sono, che non ti fa capire. Fatto sta che tu mi domando un po' tipo questo, il soft porno degli anni 80, no? Vedo non vedo. Ma a me viene da pensare che se resta a casa lo picchiano, perché cioè se no come dire, tutta questa sua metodicità lui preferisce stare lì da solo piuttosto che stare magari non so se a casa una compagna, una moglie, qualcuno, un fight club, non lo so. Fatto sta che c'è qualcuno che ti aspetta a casa. Purtroppo sì, la sua risposta. mi viene da pensare questo, perché insomma stare aperto così è un costo a vuoto, perché comunque sia consumi la corrente, magari non lo so, non lo capisco, però diciamo questo è il massimo della vita di cui si può godere alla mia finestra. Poi il fine settimana la pizzeria al taglio di fronte casa fa le consegne a domicilio, quindi venerdì, sabato e domenica diventa operativo, però anche lì non vedi molto movimento perché lavorano solo diciamo sul retro e vedi solo gli omini uscire per le consegne, non c'è altro, quindi così. Gualdi c'ha vita, Gualdi si vede io che io volevo sta soltanto dire, no, ma infatti c'ho molta vita. Io calcolate che stamattina sono uscito oggi, anzi stamattina, ieri mattina sono dovuto uscire per mandare alcune mail e fare le scansioni in ufficio, quindi sono dovuto riuscire e ho visto gente in giro comunque, ragazzi, cioè non è che allora guarda, su questo volevo proprio dire, proprio in merito a questa cosa che tu dici Gualdi, che in realtà a quanto pare questa linea morbida del governo non va tanto bene, perché pare che negli ultimi giorni c'è stato un record di denunce, tipo oltre 15.000. Cioè la gente sta in giro, cioè non c'è un cazzo da fare. E secondo me il fatto che su YouTube proliferano un po' sti video di gente che dice ma no tranquilli che non è vero niente, tutta qua, secondo me un po' sta influenzando il fatto che lo fa uno, lo fanno tutti. Cioè questo è... Ma sai che cosa c'è di sbagliato secondo me? Che in televisione danno continuamente, su tutte quante i canali, in televisione danno continuamente numeri di gente che si ammala, gente che guarisce, gente che muore, gente che sparisce, ma non danno i numeri. Non mi dà gente denunciata, che è la cosa più importante in questo momento che dovrebbero fare, perché sì, vero, questa morbosità verso il male fa soltanto male alla testa della gente. Se invece dicessero oggi sono state denunciate 1400 persone per un totale di 55.000 euro. Esatto, bravo, secondo me ti mette pure quindi quello, che secondo cioè me la gente comincia a non uscire, o uscire diciamo con criterio. Dunque, io leggevo un po' di cose nella chat e sono interessanti. Leggevo Girasole che dice, in riferimento al mio cartolaio, dice sta aperto in questo modo anche l'autoricambio alla rotatoria di Formello. In realtà lì forse c'è una differenza, lo sentivo proprio in queste ore. Il problema è che le catene di distribuzione, di approvvigionamento di pezzi di ricambio sono in crisi perché le fabbriche sono ferme e quindi anche le officine, anche tutto questo comparto che può e deve rimanere aperto perché fornisce un servizio importante, sta soffrendo perché non ci sono più ricambi in giro. Probabilmente anche l'autoricambi, che credo possa a tutti gli effetti rimanere aperto, comincia ad avere carenza di prodotto da vendere. Invece per esempio diceva Michela, poi magari se ce lo vuole venire a spiegare al microfono, perché dice ai ristoratori in Cina i ristoratori in Cina, i ristoranti si stanno attrezzando con regole nuove, il problema sarà per matrimoni e cerimonie programmate. Non so quali possono essere le regole applicabili e poi in qualche modo, come dire, effettivamente rispettabili in un locale pubblico come un ristorante o qualcosa del genere, perché il distanziamento lo riesci a ottenere fino a un certo punto e soprattutto una cosa, esatto, se hai la sala da banchetti con quei tavoloni rotondi enormi e che comunque dove diciamo sono due persone, però può specificare, fai conto, metà dei posti a tavola per garantire le distanze ci può anche stare, ma ci sono tante attività un po' più piccole che se gli togli la metà dei posti probabilmente non pagano le spese, non coprono i costi, quindi ecco, non è facile, attenzione. Certo, certo. Invece lì dal Cibali praticamente questo problema non esiste, la gente è tranquillamente assiepata negli stadi, negli spalti, giusto? Sì, sì, ognuno tiene la propria distanza dal vicino, infatti ci sono... Quindi è uno stadio enorme, praticamente. È uno stadio enorme, io infatti sto al settore del terzo piano, cioè al San Siro c'è il terzo anello. Il Cibali non è il San Siro. No, dico al San Siro, c'è il terzo anello, qui sì, c'è il terzo piano. Ah, giusto, giusto, giusto. Attento ai motorini, No, ma stanno giù sotto i motorini, purtroppo vanno e vengono. Nel frattempo sta passando, attenzione, l'unica nota, diciamo, di novità, c'è un tizio con una mascherina chirurgica che guarda, diciamo, maniacalmente un cellulare e trascina con sé una busta di plastica colorata, come se fosse, non so, un guinzaglio, ecco, sì, forse più così. Ok. Quindi utilizza una borsa come se fosse un cane, non so. Bene, la borsa come fosse un cane. Invece qui a Monterotondo i posti in blocco ci sono, cioè nel senso li fanno. Però dipende, tutto dipende insomma dallo stato d'animo delle guardie, insomma, che a volte ti sorridono, a volte e le femmine sono sempre quelle più stronze, poi chiaramente, perché ce l'hanno proprio, è come tu attribuisci un potere a un bambino, è la stessa cosa. No, scusate, dai, non volevo essere così maschilista, sciovinista e un po' anche becero. Però insomma, troppo diciamo tardi. Non troppo tardi, se lo so, ma infatti in realtà l'ho fatto con una certa consapevolezza. Quindi se Michela vuole venire a raccontarci la sua esperienza può tranquillamente farlo, gli apriamo il microfono, ma penso che sia tipo... Aspetta un momento che vi interrompo perché dalla dirimpetto sempre il... c'è il gol. No, c'è un'azione interessante perché la vicina invece che abita di sopra, il pitturatore sta stendendo i panni e guarda molto male il vicino che sta passando la vernice perché entro poco tempo dovrebbe arrivare anche verso la zona panni. Questa cosa potrebbe dar vita a delle ostilità. No, guardi, tu non capisci, il vicino sta cercando gli estremi per la delazione, sta cercando il pretesto per fare la telefonata, te lo dico io, non è un fatto dei panni. Comunque guardi, so, devo dire che da vedere. Se da una parte c'è Simone Pizzi che prima ci diceva che la parola pianoro lo usava suo nonno, devo dire che di rimpetto lo usava mia nonna quando ero piccolissimo, quindi complimenti, oggi ci manca soltanto il maestro Manzi, stiamo proprio riscoprendo, esatto, intanto l'italiano è la lingua che non deve morire. Ma perché qua dentro c'è il buio? C'è il buio in questa stanza, ci siamo rintanati, salva tutti. Si è inserita Michela e ci vuole raccontare le sue esperienze da, insomma, diciamo dalla frontiera del Charlie, del point, cioè, com'era? Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, sì. E no, mi sentite? Sì. Ah, ok. Sì, sì. Non vogliono, ma ti sentono. Ah, ok. Siamo non ti vediamo, però, te lo dico, sarà perché è buio, però non ti vediamo. No, vabbè, devo dire che in questi giorni di giri per lavoro, I vigili mi hanno fermato sempre allo stesso punto e vabbè, con però no, diversi simpatie alterne. Poi vabbè, c'è tipo il capo dei vigili che l'ultima volta mi ha detto: controlleremo se è vero quello che dice. E io ho detto: guardi, controlli, qua ci stanno tutti i documenti, non li voglio. Ah, ok, allora si li ma vuole. Sì, non vuol dire un cazzo. Quando ti dicono controlleremo non vuol dire un cazzo, cioè, ma sì, sai, è che devono tenere il punto, cioè io questa cosa l'ho imparata. Polizze voglio l'ultima parola. Vede che dovevo andare a consegnare le polizze a persone che non possono fare il bonifico e non possono venire, quindi devo fare questa consegna a domicilio. Ho fatto le copie dei titoli in modo che loro se li potessero tenere allegati all'autocertificazione. No, cioè i titoli mi hanno detto: no, questi non li vogliamo. Quindi come fai a controllare? Ma sì, ma è un modo che di dire: no, che faccio? Io non controllo. Ma Michela, ma se dovessero controllare la mole di, come dire, di autocertificazioni che raccolgono ogni giorno, ma non gli basta una lista. Se gli davi effettivamente quei documenti, poi il controllo lo devono fare per davvero. Esatto, poi lo devono fare, esatto. No, non me da niente. Io non ho fatto niente. Poi controllo. Ti controlla? No, mo, ma poi controllo. No, non li voglio, non li voglio. Però poi, cioè, è stato forte che mi ha detto: no, non li voglio. Noi ti controlliamo, Comunque io mi domando perché ancora non essere infetti, scusa. No, il problema è che se non ci sono la giusta copertura sul territorio, perché mancano le risorse, perché mancano gli uomini, ma perché non c'è... uscissero con le camionette dell'esercito. E comunque, insomma, che ne so, per andare giù all'Eurospin, per andare da Montrotondo a Montrotondo Scalo, passi pure per Piedicosta, non incontri nessuno, cioè proprio nessuno. Quindi va bene, adesso Michela ci saluta perché squilla il telefono. Giustamente, ciao, arrivederci. Sono i vigili che stanno ascoltando la diretta, esatto. Si sono incazzati, stanno controllando. Esatto. Quindi salutiamo Michela, che dopo, se vuole, può anche ritornare. Fatemi ringraziare in diretta Michela, che ieri fondamentalmente è riuscita a farmi avere una mascherina, perché io non riuscivo a trovarne. E io non sono particolarmente, come dire, sensibile al problema, per me, nel senso che non me ne faccio un problema di non avere la mascherina, però cominciavo a provare il disagio di quello che veniva squadrato dagli altri perché non avevo la mascherina. Allora Michela, che gentilmente ne aveva una in più a disposizione, si è offerta di passarmela. Fatto sta che ieri, in modalità semi-stealth, perché ovviamente sono uscito a fare la spesa anch'io, perché altrimenti rischiavo di non avere il pretesto, cosa ho fatto? Sapevo che Michela sarebbe andata in quello specifico a Eurospin, ci siamo coordinati con l'orario, mentre lei era dentro a fare la spesa, io ho parcheggiato accanto alla sua macchina che io conoscevo e sono rimasto lì celato nella mia macchina con uno spiraglietto di vetro aperto. Appena Michele è arrivata, scambio di mascherina, saluti e grazie. Devo dire che sembra lo scambio di droga praticamente. Comunque ci abbiamo sputato su quella mascherina. Vabbè, non è che sia, insomma, non più uno meno. Il Cibali, che ci dicono? No, ancora nessuna novità, interrompo. Cioè, oggi mi hanno partito tranquillo oggi. Vabbè, avvicinato e molto tranquillo. Meno male, dai, la parte meno male, tutto sommato. Attenzione, però in questo momento c'è il proprietario del Bangladesh che è uscito con una scatola di cartone e la sta buttando. E anche una busta di immondizia. A caso. Così. Il problema, Pizzi, è che il campionato ha già messo tutti i suoi verdetti, quindi questa è una partita che assolutamente non può rivelare emozioni, non ci saranno colpi di scena. E quelle partite di fine stagione. Attenzione, che un uomo di colore che entra dentro il negozio dei Bangladesh, è molto corpulento, è entrato dentro la porta e ha fatto valere la sua presenza fisica. Con la porta. con la porta, con tutta l'area, con tutta la porta, insomma. E, però adesso è entrato ed è uscito dalla zona di visione, non c'è visione, non c'è possibile vedere cosa succede purtroppo all'interno. Però non credo che siano cose molto pericolose, insomma. Va bene. Ragazzi, ma a proposito di visione, vogliamo tornare a una delle nostre vecchie abitudini, che è raccontare le serie che stiamo guardando in questi giorni, anche perché immagino che ne stiamo vedendo chi più chi meno più del solito. Sì, beh, per forza. Allora, Gualdi che insomma è andato a recuperare una vecchia chicca di diversi anni fa. Gualdi, non il riassunto. No, infatti, cioè, sì, insomma. Sono andato appunto a recuperare. Sono andato a recuperare The Shield, quello senza puntini tra le lettere. Quello con Vic Mackey, Rocco Sforco, Agents of Shield, quindi non si confonde. Meglio specificare. Comunque, ho recuperato dopo 12 anni dalla conclusione della circa quasi 12 anni dalla conclusione della serie, sono andato a recuperare questo telefilm amaragano basato su la corruzione, il gruppo di poliziotti che praticamente un po' si riempie di tasche, un po' quella serie che fa un poliziotto cattivo e poliziotto cattivo. Beh, esatto. Poi ricordiamo ispirata a un fatto reale, poi cioè, nel senso, è reale la storia e infatti è fantasioso l'ambientazione, perché comunque viene chiamato, adesso non mi ricordo com'è, però il distretto sta in un quartiere che fondamentalmente Farmington. Non esiste, esatto, sì. Distretto di Farmington, praticamente è un distretto aperto apposta per gestire quella zona, perché era piena di bande di malavita e droga, quindi aprono questo distretto sperimentale tra virgolette, e questo è un gruppo di poliziotti che formano una squadra d'assalto che dovrebbe gestire la droga, ma i problemi di droga, ma in realtà poi si riempie anche le tasche facendolo. fino ad arrivare anche a fare omicidi, rapine, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, credo la prassi normale di qualunque nucleo antidroga del mondo, insomma, ecco. Però vabbè. Diciamo che questa era una squadra speciale che aveva poteri speciali e quindi in realtà poi abusavano riccamente della loro posizione, diciamo così, insomma, e facevano cose veramente molto oltre, insomma, il normale, diciamo così, insomma. Mettendo il capo di questa squadra, che è Vic Mackey, interpretato da Michael Chiklis. Quello che poi ha fatto il telefilm la famiglia che c'erano i superpoteri là, che era che lui, esatto, ma anche il commissario Scali tranquillamente, e Ben Grimm nei Fantastici 4 e così via, una gran, diciamo, mente criminale poi alla fine, perché alla fine riesce veramente a tirarsi quasi sempre fuori da guai. Però è una storia di uno che cerca di salvaguardare se stesso, la propria famiglia, la propria squadra che lui considera fratelli, ma alla fine rimane solo, quindi perde tutto, si salva ma perde tutto, quindi è un Alex po' dice De Sciglio. De Sciglio, sì. No, non è De Sciglio, è The Shield. Quindi è bella serie, dopo 12 anni non è vecchissima, serie vecchia, non vecchissima, che però continua ad invecchiare molto bene, perché con i suoi 4/3, sì, che penso sia voluto, perché sì, è fatta con questa, diciamo, era fatta anche in tecnica con telecamera a spalla, mi pare, non un po' la Battlestar Galattica. Allora, vedo alcune informazioni così abbastanza secondo me particolari. C'erano anche delle scene che sono ringrandite rispetto alla realtà, cioè magari venivano leggermente ingrandite perché apparivano anche un po' sgranate, perché secondo me quando c'è stava Vic Mackey che era troppo ripreso bene, cioè, oh, questo qua ci rientra tutto nell'inquadratura, no, taglia, ingrandisce e taglia in mezza faccia, perché veramente so, tutte le inquadrature sono un po' messe, diciamo, come se fossero tagliate, è come se fosse un documentario quasi. Ma era quella l'intenzione, infatti. Sì. Esatto, e quindi diciamo dà sempre questo effetto, però fatto molto bene, molto studiato. Quindi, ricordo bene che a un certo punto c'è anche Jessica Lange nel cast? No, c'è... come si chiama? Ci sono vari personaggi da un certo rilievo. C'è Denzel Washington e nella terza o quarta stagione c'è, come cacchio si chiama? C'è l'attrice che adesso non ricordo. Glenn Close. Ah, Glenn Close, sì, scusate, ho sbagliato, volevo dire Glenn Close, ho detto Jessica Lange, non c'entra niente, ok. Io, per chi è appassionato, aggiungo alcune informazioni. The Shield in realtà prende ispirazione, al di là della storia vera, da quella serie di polizieschi neorealistici, diciamo così, americani, non so se voi ricordate Hill Street Blue e New York Blue, che ovviamente Blue, New York, sì. Police Department, dici? New York Police Department, bravo, scusa, sì. Che sì, no, che poi ci fu Blue. Sì, che poi in realtà quello era proprio derivato, cioè nel senso quello era tirato, questo è. In realtà The Shield è stato girato perlomeno per le prime stagioni in 16 mm, quindi direttamente in pellicola, e tutte le sequenze che noi vediamo, i piani sequenze con i zoom, i contro zoom, roba del genere, sono tutti progettati alla base, quindi c'è un lavoro tecnico dietro della Madonna e un lavoro recitativo incredibile. L'intenzione era proprio quella di fare una serie contaminata tra televisione e cinema, cioè nel senso comunque doveva sembrare veramente una docu-fiction, e la sensazione infatti è esattamente quella, perché ti dà comunque, soprattutto in determinati momenti, poi diciamo più va avanti nelle stagioni e più diventa molto più legato alla parte fiction che alla parte, diciamo, tecnico-documentaristica, però è veramente una gran serie. Una serie bisogna averci un po' lo stomaco per guardare, perché non si vedono mai cose particolari, però comunque le questioni che ci stanno in ballo sono abbastanza truci, insomma, cioè, veramente succedono delle cose fuori di testa, insomma, all'interno di questa serie, fuori di testa ma assolutamente credibili. Poi soprattutto quando tu empatizzi un po' con i personaggi, nonostante che alla fine sono dei criminali, perché comunque alla fine sono dei criminali, vedi insomma che ne succedono ulteriori, insomma veramente è una storia molto articolata in 7 stagioni, se non mi sbaglio, Marco, sono 88 puntate. Sì, vabbè, comunque mi pare che sono 7 stagioni. Vi dico che non ce n'è una di queste 88 puntate che può essere che considerata un diciamo di riempitivo. Certo, sì, sì, è vero, è vero. No, no, è veramente forse una delle più belle, guarda, è una delle più belle serie poliziesche dopo proprio ecco, insomma, queste qua, quella là, quella che ho detto prima. Il Street, New York Police Department, il Street che non mi veniva assolutamente, che se voi me la ricordate, no, blues. Ma in realtà penso sia blues, eh? Può darsi, sì, no, può darsi. Allora, se voi me la ricordate, io l'ho cercata e ricercata, ma pare che non sia molto facile da trovare, sia in fisico che in digitale. È tu quella con Furillo, dici? Sì, esatto. È molto difficile riuscire a trovarla. So che ogni tanto la Rai nell'estate, qualche volta, qualche decennio fa, ogni tanto l'ha riproposta. Ma quella era una serie che per gli anni in cui è stata fatta, ed erano gli anni 60 o 70, adesso non ricordo bene, era no, una serie 80, era... No, 80 no, sicuramente sì, più, sì. Anni, più anni 70. Dopo me la vado a il Blues del 1981. Sono 81, su IMDb, okay. In questo momento. Vabbè, sì, comunque al limite tra 70 e 80, ok. Mm-hmm. Vabbè, era una serie che era costruita per essere realistica, tra virgolette, per quello che era concesso essere realistici negli anni Ottanta, insomma. E infatti io la adoravo tantissimo. C'erano dei personaggi, c'era sta cosa di questi personaggi che puzzavano, no? Nel senso, tra virgolette, cioè che sapevano di realtà, no? E quindi alla fine The Shield in realtà riprende quello stesso meccanismo e lo amplifica in un'epoca in cui sperimentare anche dal punto di vista visivo è stato... Secondo me non ci ha avuto il successo che meritava, anche se so che ci ha avuto tanto successo, perché comunque fa 7 stagioni, non è beh, facile. Probabilmente in America avrà avuto, diciamo, una fenomenologia maggiore che in Italia. Vabbè, ma anche perché in Italia in quegli anni avevamo poche reti che potessero trasmettere questo tipo di prodotti, c'erano le reti Rai, esatto, però insomma erano relegati o a telefilm di Access Prime Time, quindi intorno alle 18:30-19 magari tagliavano pure le scene più... diciamo così, più scabrose, più scioccanti, oppure andavano magari la sera tardi, insomma non c'era la possibilità di godersi questo tipo di prodotto in quegli anni in Italia, secondo me. Io non era valorizzato. Me la sono visto mesale su Sky, no, cioè, no, io ti sto dicendo, torno indietro al Street Blues, The sì, Shield, sì. Io l'ho visto su Italia 1 e ricordo che lo facevano comunque in seconda serata, perché effettivamente era un prodotto che potesse andare in fascia protetta. Assolutamente sì, sì. Invece tu Sbans, che ti sei visto? Allora, io in realtà ho approfittato per iniziare l'ultima stagione in ordine cronologico, non so se poi ne faranno altre, di Ray Donovan, che è tutta completa su Netflix. Ray Donovan è un telefilm che non sembra, diciamo, essere particolarmente amato e popolare in Italia. A me piace moltissimo perché ha una... È la storia di un faccendiere, chiamiamolo così, che praticamente sempre sul confine della malavita, è un figlio di immigrati irlandesi che ovviamente vive a Southie, quindi nella parte di Boston tipicamente irlandese, ma che poi a un certo punto della sua vita, per vari motivi, poi ci si ritrova tutta la famiglia, finisce a fare il faccendiere ad Hollywood per i ricchi di Hollywood del cinema, e quindi toglie le castagne dal fuoco a produttori, registi, attori, infacendo ovviamente sempre piuttosto losche che hanno a che fare con ricatti sessuali, ricatti per droga, capricci vari. E lui sostanzialmente ha tutta una parabola che credo siamo arrivati a 8 o 9 stagioni che lo fanno salire e scendere da un mondo abbastanza fuori dal comune, perché quello di Hollywood, ma secondo me ti mostra il lato vero di Hollywood più di quanto possa sembrare. Nelle ultime stagioni si ritrova catapultato a New York per una serie di vicissitudini e vabbè, insomma c'è un bel cast, perché il protagonista è Liv Schreiber, che è un attore abbastanza conosciuto che lavora anche al cinema, c'è nel ruolo di suo padre, che è il fio della mignotta, più fio della mignotta che possiate pensare della televisione, che è John Voight, quindi il papà di Angelina. E poi ci sono tutta un'altra serie di attori che magari non hanno un nome altisonante, ma che sono tutti veramente molto bravi. Nella settima e ottava, o sesta e settima stagione, come personaggio ricorrente c'è Susan Sarandon, E insomma, devo dire veramente, veramente una serie che mi piace molto. Aspetto che, che ogni stagione venga conclusa per vedermela per intero. E adesso sto vedendo l'ultima disponibile. In parallelo ho iniziato l'ultima disponibile anche di Shameless, che Michela conosce bene, ma comincia a essere un po' ripetitivo, perché se Boston e gli irlandesi sembrano ricorrenti in questo caso. Anche lì si parla di una famiglia di immigrati seconda o terza generazione dall'Irlanda a Southie, quindi il quartiere sud di Boston, in cui ci sono questi Gallagher, che sono sta famiglia non disastrata di più, che veramente ne fanno e ne passano di ogni, però diciamo in un contesto che in America è molto più verosimile e molto più diffuso di quello che potrebbe sembrare. E poi ho messo nella lista delle cose che devo vedere quanto prima, l'ho segnalata anche a Simone, una serie che io credevo fosse la risposta russa a Chernobyl. In realtà ho guardato meglio, non lo è comunque una miniserie del 2016 prodotta comunque in Russia, che si chiama Dopo Chernobyl, che racconta diciamo fatti e come è cambiata la vita dopo l'esplosione del 1986. Penso che comincio a vedermela stasera. Anche perché questa, se fosse stata fatta di conseguenza, l'hanno fatta in 3 minuti sta serie, cioè l'avrebbero fatta proprio in fretta e in furia. Invece noi abbiamo finito The Crown, che è la terza stagione di The Crown. Michele ha acceso il Mac, non so se si è sentito, insomma. E praticamente la terza stagione di The Crown, che ovviamente parla della regina Elisabetta, quindi cioè nel senso ancora siamo agli anni 60, alla fine degli anni 60, quindi questo significa che vogliono fare almeno altre 4-5 stagioni, sì. Fanno un decennio a serie, un'altra la fanno, sì, un'altra la fanno sicuro, perché c'è la Thatcher, quindi Diana e tutto il resto, insomma. Beh, la parte l'epoca degli anni 80 con la Thatcher, a ricostruirli devono essere qualcosa di fighissimo. E poi dal punto di vista la Thatcher la farà la gente Skelly. Ah, così, quella che fa l'attrice c'entra Gillian Anderson. È Roscia Carota, non so quanto c'entra. Vabbè, però quello sarebbe il minimo, cioè nel senso mi metti una parola, è proprio che non c'entra proprio niente, non la proprio riesco ad associare minimamente. Ma guarda che era un personaggio così austero, così rigido, così come dire una fascista, cioè fascista del merda, al di là di quello che era diciamo l'aspetto conservatore in ambito politico, intendo dire proprio fisicamente, diciamo da un punto di vista di connotati, era talmente rigida, austera, che io non lo so chi potrebbe mai fare la Thatcher come diciamo in termini di prova attoriale, di somiglianza fisica, ecco. Comunque questa serie è interessante perché oltre a far vedere le ombre ovviamente della vita insomma della corona, quindi del palazzo reale, della famiglia reale e via dicendo, con tutti i grossi limiti, in realtà esplora molto anche la cultura britannica ed è il motivo per cui insomma alla fine lo so quello che so, insomma non c'è niente da fare, sono veramente legati a dei principi, a delle cose che c'hanno solo loro e che vedono solo loro oggi, perché sapete ancora quando loro c'avevano comunque le colonie, pensavano di essere veramente imperatori dell'India o roba del genere, lo potevo pure capire, no? Oggi le stesse cose sono riproposte ideologicamente, soltanto che non c'hanno proprio più senso. E invece Michela si sta a vedere una serie, no, non lo so da chi cazzo gliel'ha consigliato, una serie russa, sì, in russo, tra l'altro, perché non c'è in italiano. Fantastica, sta vedendo i tormenti del nostro cuore, aspetta non mi ricordo bene com'è la che in russo sarebbe ma che tipo gli occhi del cuore o tipo la telenovela no è roba sempre tipo la via dei tormenti, esatto. La via dei tormenti che è un avete presente i romanzi russi, no? Cioè quelli belli è presa praticamente è un romanzo di Alexei Tolstoi, Vanillich. Oh, ragazzi, qua sfreccia polizia a non finire oggi, vabbè tutto a posto, polizia? Sì, la sirena mi è sembrata polizia. Ok. Vabbè, finché è polizia, speriamo che non ci sia. No, non erano ambulanze, ambulanze. E niente, quindi ci stanno, vabbè, sti attori che sono tutti bellissimi, perché, vabbè, devono essere bellissimi, perché è così che devono essere. Se no, eh certo, la Russia è ambientata praticamente a San Pietroburgo nel periodo praticamente che va tra la fine, cioè nella prima guerra mondiale praticamente, quindi tra la caduta di Lenin e l'arrivo di Stalin praticamente, quindi è anche abbastanza discutibile come no è giusto come ambientazione, nel senso che no. Però diciamo che alla fine parla di queste due ragazze che si innamorano di tutti, anche se una delle due è già sposata, però si innamorano di tutti, so. E si interrogano. Se dice zoccole, non te lo volevo dire, esatto, però. Esatto, se lo diceva mia madre, mettete le calze quando vai in Lituania, che così scopi. C'è doppio ambiente, che però comunque si ritrovano. Non c'erano ancora le torreggenti all'epoca della prima guerra mondiale. Si ritrovano coinvolti a combattere nella guerra anche loro, come sussidiari, come infermiere. Una dei loro due comunque è studentessa e è la parte, diciamo così, liberale dei protagonisti, cioè quella che comunque crede nell'importanza dello studio, dell'emancipazione della donna, eccetera. E è bello, molto bello, soprattutto perché capito, dove l'hai pescata questa serie, Miki? Cioè, nel senso, volessimo darci un'occhiata anche noi, l'hai trovata su Netflix? No, è su Netflix, è in russo con i sottotitoli in italiano. Ma Netflix sono le serie in lingua, cioè sì, proprio delle varie nazioni, quindi sì, è una produzione Netflix, hanno problematiche a doppiare, insomma, ecco. Non lo so, perché forse... Ma io penso che questa magari l'hanno scelto pure di nuovo. Vabbè, poi i russi c'hanno un concetto particolare per il doppiaggio. Sì, dica da Cipoli. No, ti interrompo una cosa personalmente, perché sappi che c'è lo stesso televisore mio a 396 euro, quindi se vuoi comprarlo è il momento. Ma avrei voluto vederlo in azione il tuo prima di comprarlo. No. Purtroppo non si può. Adesso, di che televisore stiamo parlando? Guardi, adesso raccontaci. Ne discutiamo con Michela stasera. Samsung 55 polli, 4K, polli. HDR, eccetera. Ma io sono della scuola LG e non voglio cambiare. Lo so, ma LG a quel punto deve essere OLED, se no. Ma tanto io onestamente non sento l'esigenza nell'immediato di passare al 4K. Io col mio 1080 sto tanto benino, non mi sembra di avere bisogno d'altro. Insomma, poi quando magari esce la PlayStation 5 o l'Xbox come se fosse Antani, vediamo. Per il momento non ho nessun motivo per passare al 4K. Bravo, bisogna essere... No, vabbè, ma al di là del 4K noi abbiamo il problema che il televisore nostro sta lentamente morendo, e soprattutto perché ieri sera Michele ha detto: certo, una televisione in camera ci vorrebbe. Allora io ho detto: là compriamo il videoproiettore. Però in effetti la televisione è un po' più pratica. Adesso ci ragioneremo, adesso vedremo. Va guarda, da possessore di videoproiettore ti posso dire che se lo metti in camera, bello, figo, mi metto sotto le pezze e guardo 200 pollici, sì, è bello, però fa anche il suo rumore, fa anche il suo calore in estate, quindi insomma e non è neanche semplicissimo da posizionare. Farca. Se dici lo metto in sala, esatto, lo metto in sala e metto invece la TV in camera da letto, sì, sicuramente il videoproiettore è una bella esperienza, però anche lì io mi sono contentissimo del mio 1080, che quando mi è stato gentilmente donato era, diciamo, un pezzo da 90, era il top di gamma della Epson, ma dopo 10 anni fa ancora il suo e sono contento così, insomma. Va bene. Allora, io sto cercando la serie russa. Mi ripeti il titolo, Miki? No, Agnese Trignetti. La via dei tormenti. Tanto guardi, mandami il link del coso. Beh, anziché, a me piacerebbe una bella serie televisiva su Anna Karenina, per esempio. Cioè. No, è partito il play, ma come osi? Cioè? Poi me lo metto nella lista. Niente, ho cliccato e stava già iniziando lo streaming. Poi me lo metteva nella lista delle cose da vedere. Oramai te lo mette. Oramai sei, cioè. No, l'ho fermato in tempo. 2017, una stagione. Allora, no, non è un original. Però comunque, vediamo un po' quanti episodi sono. Oh, sono un po'. 12 episodi di una stagione, sì, insomma. Vabbè, simpatico. Tanto vi comunico che da domani in Lombardia non si può girare per nessuna ragione al mondo senza nessuna protezione al volto, quindi mascherine. Allora, io questa cosa l'ho letta pochi secondi fa e stavo quasi per, diciamo, per bestemmiare, perché se io sono dell'idea che se mi metti un vincolo così stringente, dopo mi devi prima dare, anzi non dopo, prima mi devi dare le mascherine, perché se non ce l'ho. E se non ce l'hai oggi in ogni caso, poi dopo costringi la gente a riutilizzare le stesse mascherine, quindi aumentando il rischio di contagio. Cioè, io oggi stavo a sentire sulla radio che dicono, cioè, in realtà, allora, le mascherine, avendo comunque la funzione di non infettare gli altri, cioè non servono a te per proteggerti fondamentalmente. E questo lo dicono i sanitari dall'inizio della crisi, ben sapendo che non ce ne saranno mai abbastanza per tutti, specie di quelli, diciamo, dicono, lasciamole a chi ne ha veramente bisogno. L'affermazione secondo cui tu non puoi sapere di essere, tu potresti non sapere di essere contagioso, c'ha anche lei un senso, però ripeto, rispetto allo stato delle cose, come dire, è una misura complicata da gestire. Se io faccio un'ipotesi, nella prima occasione che adesso ovviamente ne ho una e la laverò per cercare di farla durare nel tempo, però è chiaro che se di fronte alla necessità di entrare in un negozio di generi di prima necessità mi dovessero impedire l'accesso perché non ho la mascherina, io faccio arrivare carabinieri, vigili del fuoco, polizia, chiunque. No, non può, però scusate, posso un attimo interrompere un attimo su questa cosa, poi dopo finite voi. Cioè, in realtà qui si parla di qualsiasi protezione al volto, non si parla di mascherine. Metto il passamontagna, lo vado a fare la rapa. In buona sostanza, oggi in alcune trasmissioni anche radiofoniche hanno detto che comunque per quello che è l'efficacia delle mascherine che prendiamo noi, va bene pure la sciarpa. Cioè, nel senso. Ma sì, ma per carità, Simone, siamo d'accordo. Però diventa veramente. Capisci che poi l'obiettivo passa da un presidio sanitario a una presa per il culo con uno schiocco di dita, però. Perché visto che stiamo veramente efficaci a livello art attack, allora tanto vale che non me la fai mettere. Magari fai un'altra, come dire, una regola per cui mi impedisci di parlare con le persone, perché parlando posso sputazzare. Il problema è respirare, non dovresti respirare. Respirando sputazzi di meno, parlando probabilmente sputazzi di più. Però voglio dire, cioè, che poi mi dici va bene, in mancanza di una mascherina ti puoi mettere anche la sciarpa, il foulard, eccetera, e siamo veramente a livelli della presa per il culo, secondo me. Però vabbè, che vedevo di. No, vabbè, infatti io non. Tra l'altro, mi è venuta in mente una cosa che non c'entra assolutamente niente. Mi è venuto prima, allora, dato che. Prima, post pranzo, ci siamo fatti il nostro pennichella, insomma, quotidiana, ci piace, a noi ci piace proprio tanto, no? A un certo punto ti ho detto, Alexa, metti i suoni della natura di primavera. E riproduco suoni, a un certo punto ti ho detto, io ho detto, ma, cioè, io dentro di me mi sono domandato, ma c'è un animale, cioè, nel senso, è che ne so... È un bosco, cioè con un animale che fa sto suono. Ho detto, Michele, ma che cazzo si stava sentendo? Arriva Alex, cosa stai riproducendo? Riproduco porn sound lesbo system. Ecco. Perché infatti, quando tu hai fatto la parafrasi vocale, io mi stavo domandando se stessimo parlando di suoni sessuali o di suoni intestinali. Non era chiarissimo. No, infatti, c'è qualcosa che non fa. È stato divertente. Avrei voluto registrare. Quindi esistono anche queste playlist simpatico. Suoni di sottofondo. Che poi, tra l'altro, mi ha fregato Alexa perché mi ha fatto fare l'upgrade a 9,90 quando pagavo 3,90 finalmente. Invece pagavi 3,90, però 9,90 perché adesso tutti e due i dispositivi possono accedere alla veramente alla scusate se ve lo dico, ma beh, questa è un po' una bastardata, devo dire. Per Amazon Music. Sì. Ho capito. Ragazzi, intanto sono usciti i dati per la Lombardia, a breve usciranno anche quelli su scala nazionale. Dunque, in Lombardia siamo di fronte, diciamo, a una situazione che continua a essere piuttosto stabile. Ci sono 345 decessi in 24 ore, per un totale in Lombardia di 8.656 decessi e 50.000 positivi circa. Come dicevamo, quindi siamo ancora nel pianoro, non c'è ancora la discesa nemmeno nelle zone dove lo stato è di maggiore crisi e ci fanno notare sui vari siti di news quello che poi ci aveva linkato anche Alex Raccuglia poco fa in chat, di cui parlavamo, di questo obbligo di uscire da domani in poi. Infatti è diversa la notizia da come l'ho letta io, perché il titolo qua dice che l'obbligo di uscire con mascherine e sciarpe se non si esce di casa, cioè pure dentro casa li sta bardato. come se non si esce di casa. Oh, leggi, sì, leggi il titolo. Sì. È consigliato. Sciarpe quando non si esce di casa. Quando si esce, no, di casa. Quando, ah, no, si esce, quando di si casa. Oh cazzo, regà, niente. Però scusate, ho letto qualcosa in giro che comunque qualche scienziato, qualcuno che consiglierebbe anche di mettersi mascherine, soprattutto per chi è in isolamento preventivo. Vabbè, sì, quello dentro casa, in teoria, se tu c'hai una persona in isolamento, deve stare bardato. Sì, sì, quello si sa. Insomma, però, stare bardato è da solo, nel senso, se tu sei a rischio di sviluppare una positività e coabiti con altre persone, è fondamentale che devi stare in un locale, sì, separato. E cioè, mettere la mascherina. La cugina di Simone, che è stata in isolamento preventivo perché lei lavora al Senato, quindi per forza di cose ci ha avuto, sì, loro vivevano separati, lei stava sempre dentro una stanza e basta. E quando andava a mangiare lei, tutti se li mettevano nella loro stanza, poi sterilizzava tutto, vabbè, ma questo è una normale profilassi, insomma. Mi sa che Sgualdi voleva di qualcosa, sentivo che diceva sotto. No, io non dico niente. No, forse. C'è rimasto male. Non credo di dover dire nulla, però non mi ricordo. Se vuoi, però tu puoi anche dire qualcosa sul nulla. Comunque, vi volevo dire che l'altro giorno Mauris, una mia amica ha affermato che praticamente c'era un signore anziano davanti a lei che non c'aveva la mascherina, che non c'aveva niente, che non l'hanno fatto entrare. E lui gli ha detto: guarda, io la mascherina non so dove comprarla. Poi dopo, alla fine, sembra che delle persone che stavano fuori gli hanno comunque fatto la spesa loro e lui ha aspettato. Guarda, Michele, a me pochi giorni prima, sempre proprio davanti allo stesso Mauris, situazione simile, il tizio mi guarda e mi fa: ma lei non ha una mascherina? Dico: no, guardi, purtroppo no, non è per mia scelta. Dico: ma io non la posso fare entrare. Dico: guardi, io devo fare la spesa, se mi dice che la mascherina voi ce l'avete, io disponibilissimo a comprarla in questo momento e indossarla subito, ma se non ce l'avete non è colpa mia perché non so dove trovarla. Lui mi ha guardato e ha detto: va bene, entri, perché voglio dire, poi serve anche una sorta, come dire, raziocinio, è chiaro tutto, però non mi puoi imporre una misura che poi non spetta, no, a me poter... Non ci sono proprio regolamentazioni, a parte questa cosa della Lombardia, che secondo me si interverranno, perché comunque... Cioè, mi sembra una puttanata totale. Vabbè, sì, devono, perché in questo momento... Cioè, non sanno, veramente non sanno. Arriva il governatore di sto cazzo, cioè, facciamo così. Ma cioè, in base però, però stavolta è colpa dei Conte, perché il fatto di lasciare comunque una certa discrezionalità, autonomia alle regioni, gli dà il modo di essere protagonisti. Perché qui adesso, in questo momento, il fatto di essere un po' nascosti in luce. Cioè, ci stanno poche. Giusto, ci sarà ancora più l'accaparramento verso le mascherine. Cioè, invece. Provi a proibirlo, cioè tu, se non sei malato. Sono abbastanza convinto, dubbi, che c'è un imprenditore della Lega che vende e produce mascherine in Lombardia. Allora, in realtà, Simone, sai cosa sta succedendo con le mascherine? Adesso c'è un paradosso, nel senso che molte aziende, anche diciamo della moda, hanno convertito, anche su richiesta diciamo del governo, le proprie linee produttive. Sì, però c'è un problema. Siccome queste linee produttive non sono certificate per produrre mascherine a norma CE, le mascherine che stanno producendo non possono essere né vendute né distribuite. Quindi, fondamentalmente, come dire, molto rumore per nulla. Sono riusciti a fare delle deroghe che hanno permesso di... Aspetta, Michela, sono riusciti a fare solo una parte di deroghe che permettono di importare dalla Cina dei quantitativi di mascherine in deroga, perché queste ovviamente non hanno la conformità a comunità europea, però... In quello specifico caso, quelle mascherine non possono essere utilizzate per scopi sanitari, e questo in parte salva capre e cavoli, perché le potrebbero utilizzare le persone comuni uscendo di casa e ci può ancora stare. Il problema è che anzitutto quelle FP2, FP3 e quelle marcate comunità europea, prima di tutto, devono essere distribuite ai sanitari. E non solo, ci sono anche tutte quelle forniture che molte regioni stanno ricevendo. Io ho visto amici che di mestiere sono nelle forze dell'ordine e ci mandano spesso delle foto anche nei gruppi WhatsApp, di questa specie di striscette rettangolari di tessuto più o meno protettivo, con due tacche per infilarci le orecchie ai lati, che sono una cosa di un inutile, di un triste e di un fuori luogo. Sono le famose mascherine Bunny di De Luca, quelle stanno arrivando in molte regioni. Eh sì, no, è vabbè, vero, perché sono... anche perché se ti devi sbrigare e devi inventarti una linea produttiva che dalla sera alla mattina riesce a fare un prodotto per cui non è previsto, te devi anche adattare. Ricordati che neanche nelle peggiori crisi c'è sempre qualcuno che guadagna qualche cosa facendo cose che magari sono fatte come sono fatte. Però vabbè, c'è stato il caso, Simone, 10 giorni fa, 2 settimane fa, il bando Consip per la produzione di milioni di mascherine, che è stato poi bloccato perché l'azienda che ha vinto il bando era non in onor di mafia, ma peggio ancora, perché sostanzialmente facendo una visura camerale dell'azienda che aveva vinto questo bando, era un'azienda che era passata di proprietà pochi giorni prima e che era stata convertita dalla produzione di prodotti agricoltura biologica, non ricordo bene a cosa, a produzione di mascherine. Siccome era un bando da 27 milioni di euro, a qualcuno è venuto subito il dubbio e hanno indagato i giornalisti di Open, David Puente ed altro, e questo bando è stato bloccato. Però ripeto, effettivamente, come dici tu, c'era già subito chi come un falco si era buttato sulla possibilità di speculare su questa cosa. Assolutamente. Allora, sì, intervengo su una cosa che abbiamo i dati che Davide Gatti ha scritto sul gruppo Tecnopills, non so per quale ragione poteva scriverlo anche nella chat nostra, però evidentemente non siamo degni di questa informazione, che circa 30 minuti fa sotto casa sua è passato un fuoristrada della protezione civile che vabbè, tramite altoparlanti praticamente emanava il solito messaggio di stare a casa, state a casa, eccetera eccetera. È passato praticamente, ci sono passati vicino a un tizio che portava il cane e circolava senza mascherina. Praticamente loro si sono fermati, gli hanno dato una mascherina, gli hanno spiegato come si indossava e se ne sono andati, vedi, cioè nel senso un minimo di disponibilità. Il problema è sempre quello. In teoria io qualche giorno fa ero rimasta la notizia che comunque erano arrivate le mascherine da consegnare alle persone immunodepresse, anziane, che comunque avevano bisogno. Ho anche inviato la comunicazione a una mia amica, quindi ce la dovrei avere via chat, perché comunque è immunodepressa. E aspettate che la cerco, perché vabbè. E in teoria comunque la fornitura base, almeno per le persone in più difficoltà, avrebbero dovuto completarla in questi giorni. Però adesso non so quel che è successo nel frattempo, perché come capita in Italia le cose sono sempre... A Roma per esempio, notizia di oggi, hanno arrestato un infermiere di un ospedale che praticamente rubava i materiali, mascherine ed altro materiale, non so se per ricettarlo o cosa. Beh, ma c'era quella cosa che sul video dei Neurodrom, non so se l'avete visto, di quella ragazza che lavorava sulle ambulanze, che praticamente lei su Facebook tranquillamente si è fatta la foto scrivendo che lei tranquillamente, ah regà, tranquilli, io tanto entro dentro, saccheggio, faccio quello che cazzo mi pare. Cioè, sì, ma io non riesco a capire la stupidità di queste persone. Infatti a me è questo che mi sconvolge. Guarda, a me se non concesso che in una situazione d'emergenza uno possa, e non lo concepisco, però voglio dire, voglio arrivare al limite del pensiero, posso arrivare che tu comunque magari ti approfitti di quella posizione, ma addirittura di abusarne e addirittura parlarne pubblicamente, cioè sei che Dio sia, io pensare che tanta qualcosa gente... che non va, raga, cioè. Tanta gente non ha la percezione del fatto che quando parla sui social network sta facendo qualcosa in pubblico. Sono secondo me tutti convinti di parlare solo... Una volta solo... poteva valere questo discorso, su, dai. Non... capito, ma se lo fanno è perché evidentemente non hanno la percezione che stanno rischiando il culo. Simo, tu lo fai... Cioè, parliamoci chiaro. È come, che ne so, fare una qualsiasi cosa sapendo che verrai scoperto. Se tu hai questa percezione, non la fai. Allora, c'è il comunicato del sindaco di Monterotondo, che interesserà sicuramente... Sì, è del 28 marzo, in cui dice: in questo momento la protezione civile ha iniziato le prime consegne delle mascherine sul territorio. Abbiamo cercato di essere i più attenti possibili nella stesura della lista. Siamo qui al COC e chiedo cortesemente a tutti COC i medici, il cazzo, centro operativo, esatto, eccetera, comunale. E chiedo cortesemente a tutti i medici di famiglia, pediatri, malati oncologici, immunodepressi e tutte le altre attività di servizi pubblici essenziali di mandare una mail a eccetera eccetera. Io al COC non ce vado a piama, potete indicarci particolari necessità e lasciare telefono e indirizzo per essere subito ricontattati anche in merito alle mascherine. Quindi comunque la protezione civile ha avuto questo, diciamo così, questo input di consegnare queste mascherine che regione per regione sono state messe a disposizione. Bene, ma io concluderei la trasmissione, prima di fare un giro finale con tutti voi, con un po' di ottimismo. E quindi i numeri di oggi, quali sono i numeri di oggi, Michela? Allora, perché aspetta che lo... Dove ci siamo, no? È una tradizione, lo facciamo. È saltata cosa? Che si può? Non saltano la le pagina. Cose. Le pagine saltano. E quando è così, una volta erano i virus che te facevano sti scherzetti. Non so se vi ricordate quella cosa del... Cioè, clicca qui, buon Natale, no? E cominciava a nevicare sullo schermo, in realtà ti è ripreso... Allora, io i numeri... Eccoli, li ho trovati io, se Michela vuole... Vai, sbano. Allora, abbiamo 681 morti e 2886 casi positivi, quindi cioè, siamo ancora stessi, sul pianoro. Siamo sul pianoro, rallentiamo piano. Mi rotto il cazzo sto pianoro, però. Cioè, comunque, anzi, io dico, la gente deve... Secondo me, veramente, qui tocca fare un attimo una stretta forte, perché tocca che il governo intervenga in maniera seria, perché dai, la gente sta in giro, non c'è cazzo da fare, non se raccontiamo stronzate... Perché alla fine dentro casa ne stiamo solo noi, allora poi me ne vado in giro pure io, vaffanculo. Scusate. Non ecco, voglio dare questo brutto messaggio. Porta il microfono a Gualdi. Incontratevi. Giustamente anche Ulrich Anders dice: io al COC non ce vado. Infatti, Matteo... no, infatti non ce va nessuno di noi. Al COC no, sì, si fa un po' paura, però si chiama così, che dobbiamo fare? Ragazzi, io volevo sollevare, visto che noi siamo sempre una costola di morti di bestemmie. Una rivolta, credo che... sollevare una rivolta. No, diciamo lo sdegno popolare, perché devo portare due piccole notizie, o meglio, neanche tanto piccola. La prima delle due è che Salvini, nel suo continuo vomitare populismo pseudo-religioso, oggi se ne è uscito con apriamo subito le chiese per pregare per Pasqua, e questo vabbè è del suo classico squallore, ormai ci abbiamo fatto talmente tanto l'abitudine che ci facciamo gli diamo ormai poco peso, perché nel computo della quantità di cazzate che dice, la singola cazzata ormai non vale più neanche un etto. Molto molto più grave quello che sta succedendo in Ungheria, dove Orban, che abbiamo detto nelle dirette precedenti, ha ottenuto pieni poteri, ha praticamente esautorato il Parlamento, ha fatto in modo di poter prolungare lo stato d'emergenza e quindi la sua autarchia a botte di decreti pressoché all'infinito. L'altro giorno già se ne è uscito con una dichiarazione del tipo: adesso siamo in emergenza, non ho tempo per la democrazia, una frase del genere. Vabbè, ma quello non... si capiva già dall'inizio, non finì così, Bene. Il primo provvedimento da dittatore che ha applicato, tanto per dire la logica di certe cose, vietare il matrimonio e le unioni civili tra transgender. Sì, no, l'operazione anche, l'intervento chirurgico. Anche l'intervento chirurgico. Capite che insomma è evidente che se stiamo parlando di un momento di emergenza sanitaria e tu ti vai a preoccupare di questa cosa... Ma è per il coronavirus, perché se tu vai a fare l'operazione magari che ti infetti, capito? Ovviamente 13 partiti, un gruppo di 13 partiti liberisti di destra europei, che aderiscono tutti al PPE in sede di Parlamento europeo, hanno preso le distanze da Orban. Chi non l'ha fatto, immaginatelo anche voi, Forza Italia e la Lega. Quindi insomma vabbè, così questo è quanto. Non ce l'aspettavamo proprio. Comunque la cosa bellissima, sentendo Radio Capita l'altra mattina, praticamente pare che una trasmissione di Barbara D'Urso, che dice che oramai ha raggiunto dei livelli da pena di morte praticamente, con Salvini sempre presente, perché pare che fare l'eterno riposo. Io veramente, regà. Ieri sera a Propaganda poi c'è stata questa associazione di Barbara D'Urso e Salvini che facevano l'eterno riposo con i predicatori americani. Cioè, che è stata Celenza mi ha fatto. Sì. Ragazzi, vedete il video di Celenza di ieri a Propaganda, perché Meno male che c'è Propaganda, che la pandemia non ci ha portato via Propaganda. Però hanno fatto una petizione che è stata firmata fino adesso Propagandemia. Da 385.000 persone richiede praticamente di cancellare Barbara D'Urso dalla televisione. No, ma non è solo perché il problema non è Barbara D'Urso, è un automa, sta lì a fare quello che gli fanno. Cioè, lei non c'ha un pensiero suo su sta, lei è una pazza, è una pora imbecille, no? Dovete permettere di dire questa cosa, perché secondo me, a furia di petizioni, noi stiamo ancora una volta facendo il contrario del risultato che vorremmo ottenere. Il problema è che sono programmi squallidi. operazione numero uno, non guardarli, operazione numero 1.1, non parlarne, perché la petizione non fa altro che alimentare un, diciamo, quello che loro vogliono. Diceva il principe di Salina, il Gattopardo, bene o male purché se ne parli, e questo concetto si applica perfettamente a certi tipi, diceva pure Mussolini questo. Guarda, lo dicevano in tanti, probabilmente lo dicevano anche prima, sì. Il concetto è che è una televisione privata, i format li fanno come cavolo pare a loro, non è neanche la Rai, quindi non c'è nessun pretesto per pretendere che i programmi della D'Urso vengano interrotti. C'è solo un modo perché questo succeda, che la ucciderla, gente ucciderla proprio in piazza, e se fai il fa appesa per piedi. Sì, se non è la Panicucci è un'altra, ma c'è un campionario di personalità similari, perché ovviamente tutte queste persone, donne e uomini, della televisione rappresentano un format, non te liberi del suo. Prendo la linea allo studio, sta passando un tizio che ha capito perfettamente come funzionano le mascherine, l'ha messo a mo' di cappia, come si dice quella ebrea, come le cappie, che come si chiama? La cupoletta ebrea? La cupoletta, che no, pensavo le chefiauda, come l'avevi detto. Cioè, se l'ha messo in testa, come? In testa, esatto, proprio sopra. Ma non lo so. Vabbè ragazzi, io direi che questa mi ha veramente rattristato molto più di tutte le altre. Io ringrazio e saluto per questa puntata, che alla fine insomma siamo andati anche oltre l'oretta, insomma diciamo quasi un'oretta e mezza, insomma ci può stare, no? Perché alla fine, a meno che non ci avete altre notizie, io penso che possiamo anche insomma andare verso, che mi ha preso sta cosa della cuffia, la cosa in testa, ma ragazzi stanno già accomunando il catch 22, quindi il paradosso del comma 22 a Fontana, perché ha ovviamente obbligato con un'ordinanza regionale ad uscire con la mascherina, laddove le mascherine, soprattutto e a maggior ragione in quel territorio che è il più devastato dal virus, non ci sono. È colpa del governo, secondo me. Allora, non dico fa quello che ha fatto Orban, però devi centralizzare il controllo di questa situazione. Cioè, devi solo delegare dal punto di vista esecutivo, non puoi delegare dal punto di vista politico e decisionale. Perché diciamo una norma diversa da regione a regione, perché poi si creano i problemi. E vedrai che domani Fontana farà qualche dichiarazione in televisione dicendo: Roma non ci manda le mascherine. Sì, sicuro, sì, a posto. Tanto Fontana ogni... Sì, vabbè, stavolta si sono bruciati un po' da soli, però. Le mascherine le usa tutte lui, che poi, vabbè, con la conferenza che hanno fatto per l'ospedale dei Ro, si sono superati proprio, quindi... Era che hanno fatto un assembramento di persone per fare il momento di bellezza, che poi da che doveva essere tipo un ospedale da 250-300 posti letto, ne hanno aperti tipo 40-30, quindi è stata veramente pure una farsa... classica, insomma, sai, da regime, però vabbè, che dobbiamo fare? Vabbè, sempre meglio di niente. Vabbè ragazzi, allora io saluto e ringrazio Marco Gualdi che sta lì al Cibali. Noi speravamo in un gol, oggi invece niente. No, purtroppo oggi è stata una partita tranquilla. Neanche sensazioni concitate, ecco, quasi rispettosa delle regole, diciamo. Esatto, c'è soltanto un tizio che era appoggiato a un palo con una bellissima tuta viola e uno zaino alle spalle. Guarda la serranda, così, sguardo fisso nel vuoto. Vabbè. È uno spacciatore, chiedi se c'è un po' di fumo. Vabbè, ma secondo me perché dovrebbe chiedere una scusa? Mi farebbe bene. Va bene. Guarda che sì, d'accordo con Michela. Saluto e ringrazio anche Walter Sbano. Ma io adesso che faccio? Sono le 18:30. Che faccio io adesso? Ah, che se mangiamo stasera? Bistecca e devo stendere i panni, lavare i piatti. Stendi i panni stasera, noi ci facciamo un bel bisteccone. Guardi invece che se mangi a casa tua. Ma non si sa. Tra mezz'ora si cena. Qualcosa di fritto. Annusa l'aria, senti se c'è qualcosa di fritto. Senti, ma no, avete sentito il terremoto a casa, Marco? Vabbè, dopo parlare. Sì, l'ho sentito, ha detto che poi si fa sentire lui. Ah, ok. Ha detto mai di passa. Bene, ringrazio anche Michela che sei inserita, insomma, così piacevolmente. È sempre un piacere, insomma, avervi tutti. Non lo dici solo perché tua moglie è senotimena, vero? No, assolutamente no. E vi ricordo che praticamente Runtime, giustamente questa è la parte dove noi dobbiamo ricordare le cose belle, che Runtime continua a fare praticamente le sue dirette ogni giorno, almeno una diretta al giorno, se non addirittura due, perché per esempio oggi ce ne sono state due. Durante questa settimana ci saranno diverse dirette, addirittura una diretta alle 23, attenzione, mercoledì sera, una diretta horror alle 23, attenzione, sarà una cosa divertente. Ma soprattutto vi do l'appuntamento a domani alle ore 17 con Michela De Paulas Mono, con la sua fantastica trasmissione musicale che sta riscontrando molto successo e quindi ha trovato l'entusiasmo per farla, e adesso tutte le domeniche c'è Michela De Paula Mono. Anche a parte, ottimo, autocelebriamoci anche del fatto che lunedì torniamo nel nostro orario, quello canonico, quindi dalle 21 con OGM, oltranzisti gastricamente maleducati. Non so di che parleremo, ma insomma, come oggi di che abbiamo parlato, la stessa cosa. Ma un po' fatti dei cazzi nostri, ma cazzi infatti nostri, è la cosa più bella durante questo periodo, un po' così. Quindi grazie a tutti. Che piace. Grazie a tutti e ci salutiamo tutti quelli da chat, ci vediamo appunto noi lunedì, domani con Mono e poi tutto il resto, insomma, delle trasmissioni di Runtime, e vi aggiorneremo ogni volta, di volta in volta. Ciao a tutti! Ciao! Ciao.